24, i gialli della storia. L'America e il mondo lo ricordano come Bobby. Era il fratello di John Kennedy, il presidente ucciso a Dallas dopo 100 giorni alla Casa Bianca. Ma era anche il suo miglior amico, il suo più prezioso collaboratore. 5 anni più tardi anche lui decide di correre per la presidenza degli Stati Uniti. Era un candidato giovane, ricco, affascinante e idealista. È arrivato un passo dalla Casa Bianca con la vittoria quasi scontata prima che un assassino uccidesse anche lui. Aveva solo 42 anni. Noi oggi a Mix 24 raccontiamo la sua storia. Giugno 1968. Per l'America è l'ultima estate di speranza. Come un'enorme bara, un treno corre nel lungo pomeriggio d'estate. Un milione di americani si affolla lungo i binari. Tutti vogliono vedere il feretro di Robert Francis Kennedy mentre viene trasportato a Washington per i funerali. Sono i poveri, i disperati, gli ultimi. Vedove i cui mariti sono caduti in Vietnam. Persone di colore i cui ghetti bruciano ancora. E giovani. Tanti giovani. Il loro sogno si è infranto troppo presto. Cimitero di Arlington. I due fratelli, uccisi a 5 anni di distanza l'uno dall'altro, sono di nuovo insieme. Il 22 novembre 1963 a Dallas la morte di John Fitzgerald Kennedy ha chiuso l'età dell'innocenza dell'America. Dopo la sua morte, gli Stati Uniti sono sprofondati nella violenza e nel caos. Al funerale del fratello, Bob Kennedy è consumato dal rimorso e dai sensi di colpa. Ripercorrendo la strada politica che ha condiviso con John, una domanda lo tormenta. Chi ha ucciso suo fratello e perché? John Kennedy aveva molti nemici che lo odiavano e che avrebbero avuto buoni motivi per vendicarsi. La malavita, J. Edgar Hoover, Fidel Castro, Jimmy Hoffa, i razzisti degli stati del sud. A trasformarli in nemici ci aveva pensato Bob. 24 settembre 1964. La commissione Warren presenta la sua relazione finale a Lyndon Johnson, succeduto a John Kennedy alla Casa Bianca. Bob Kennedy non depone davanti alla commissione, né esprimerà mai pubblicamente i suoi dubbi sul fatto che Oswald abbia agito da solo. Se lo avesse fatto, avrebbe dovuto affrontare terribili verità sul proprio ruolo durante la presidenza del fratello e sulle passioni che lo divorano. Il giorno in cui viene presentato il rapporto Warren, Bob sospende la sua campagna elettorale nello stato di New York. Vuole stare da solo. Lo tormenta il ricordo degli anni dedicati al fratello morto. Ora che ha deciso di candidarsi in prima persona, Bob riflette su ciò che ha fatto, che cosa in lui ha scatenato così tanto odio da provocare la morte di John. Per uscire dall'ombra di suo fratello, Bob deve capire qual è la lezione da trarre dal passato, dov'è che ha sbagliato. Forse con Jimmy Hoffa? D'accordo con Jimmy Hoffa è l'uomo contro il quale Bob Kennedy ha condotto la sua prima crociata, l'avversario ideale per la sua prima grande battaglia pubblica. Forse Bob si è accanito troppo contro di lui? Alla fine degli anni 50 i camionisti americani appartengono al sindacato Teamsters. Molti dirigenti di questo sindacato sono legati alla malavita. A capo del sindacato c'è Jimmy Hoffa. Per Bob Kennedy la guerra Hoffa è solo un primo passo. Attaccare il male evidente significa guadagnarsi la stima della famiglia e venir considerato il più duro dei Kennedy. Dopotutto è questo che suo padre vuole da lui. Ma quella contro Hoffa non è una battaglia soltanto sua. Anche John, quando entrambi lavoravano alla commissione anti-racket, si è esposto contro la malavita e i sindacalisti corrotti. Attaccando Jimmy Hoffa, i fratelli Kennedy hanno sfidato la criminalità organizzata. E la malavita non lo dimentica. Da un memorandum segreto. Minacce contro l'ex ambasciatore Joseph Kennedy e i figli di Robert Kennedy. L'incolumità dei figli dei Kennedy è in pericolo. Ora, ripensandoci, Bobby si rende conto di aver esagerato con Hoffa. Voleva dimostrare di essere il più duro dei Kennedy. Sin dall'inizio è apparso chiaro che il suo ruolo sarebbe stato quello di agire senza troppi scrupoli pur di realizzare il sogno di suo padre, far diventare il fratello maggiore, John, presidente degli Stati Uniti, a qualunque costo. Sarai contento che sia finita, vero Bobby? Sì, Jack. Ok. 1952. Il padre ordina a Bobby di trasformarsi nell'eminenza grigia dietro la campagna elettorale di John per un seggio al Senato. 1956, la convention democratica. John è l'astro in ascesa della politica americana. Bobby invece resta nell'ombra. Dietro al fratello manovra la stampa e i dirigenti più importanti del partito. Ora però deve sacrificare le proprie ambizioni per far conquistare al fratello la Casa Bianca. Luglio 1960. Grazie al lavoro di Bobby, il candidato favorito grazie alla convention democratica è John Fitzgerald Kennedy. Per garantire la sua nomination, Bob, dietro le quinte, ha lottato senza esclusione di colpi, con la prepotenza e le minacce. Ma qualcosa va storto. Come candidato alla vicepresidenza viene scelto Lyndon B. Johnson, che Bob detesta. Ma Johnson ha dalla sua la simpatia di cui gode presso i democratici bianchi del sud. Un grande ringraziamento va a mio fratello Bobby, che ha condotto e organizzato tutta la campagna per le elezioni primarie e la mia campagna per il Senato nel 1952. È stata per me la persona più importante. 8 novembre 1960, il giorno delle elezioni. Con il loro fascino, John Kennedy e la moglie Jacqueline hanno oscurato senza difficoltà il candidato repubblicano Richard Nixon. Dietro le quinte, Bob, per parte sua, ha condotto una lotta sempre più dura. Per lui ormai l'idea di conquistare la Casa Bianca per conto della sua famiglia è quasi un'ossessione. Nella tenuta dei Kennedy a Cape Cod, la famiglia è riunita in attesa e in preghiera. Nei voti di tutti i candidati repubblicani messi insieme, credo... Bob sa fin troppo bene che stavolta sarà decisivo qualunque voto comprato e qualunque broglio. Ma Bob sa che John ha vinto a Chicago grazie all'appoggio della malavita? È al corrente dei rapporti equivoci del padre con la mafia? Bob comunque va avanti a testa bassa, nonostante quella vittoria sia stata ottenuta solo per poche migliaia di voti. Per l'America è l'inizio di un nuovo giorno, l'alba dell'era di Camelot, un periodo di eterna gioventù in cui una nuova generazione avrebbe creato la cosiddetta nuova frontiera. Per Bob è una vittoria, ma lui è il Kennedy che resta nell'ombra, non quello che la gente acclama come il vincitore. Solo più tardi si renderà conto che qualcosa non lo soddisfa. Dopo mesi di campagna in tutto il paese, è possibile che la vittoria sia arrivata solo a prezzo di brogli? Non è quello che Bob sperava. Quando John gli offre l'incarico di ministro della giustizia, Bob rifiuta. Vuole dimostrare di avere dei meriti propri, di essere qualcosa di più della semplice ombra del fratello. A 26 anni Bob ha sposato Ethel Shaker, una cattolica devota, proprio come i Kennedy. La coppia ha avuto 11 figli. Bob è un marito felice. Ma nella vita pubblica Bob non ha mai potuto decidere del proprio destino, almeno fino alla morte del fratello. Ancora una volta, Bob deve piegarsi ai desideri del padre. Mi rendo conto dei gravi problemi e delle difficoltà che avremo nella nostra posizione. Ma io conosco questi problemi, perché ho lavorato al Ministero della Giustizia. E sono stato a capo del comitato del Senato contro il racket. Conosco i gravi problemi che abbiamo tutti noi, in quanto cittadini di questo paese. Ma penso che si possa fare molto, in questo e in altri campi. All'inizio tutto promette per il meglio. Bob è diventato la persona che fa rispettare le leggi in America. La sua carica di ministro della giustizia è la posizione ideale per continuare a proteggere il fratello. Ma l'aver ottenuto improvvisamente un potere così enorme lo ha corrotto al punto di servirsene in modo troppo avventato? Bob da subito ha rimproverato J. Edgar Hoover, il potente capo dell'FBI, di dedicare più energie alla caccia a pochi comunisti che alla lotta contro la criminalità organizzata. Ha forse esagerato? Ha agito in modo affrettato, accecato da un odio ingenuo per gli uomini corrotti e per i loro alleati? Al Ministero della Giustizia, la criminalità organizzata ci preoccupa sempre di più. È diventata così ricca, potente e ben radicata che spesso la legge non riesce a colpirla. Sappiamo che la Polizia Federale e quella locale hanno svolto un'azione molto efficace nella lotta contro la droga, il furto di auto, la prostituzione, le rapine, i sequestri e altri crimini. Vi chiedo di unirvi al signor Hoover e a me nell'applicare la legge con maggior severità in questo paese, mantenendone il vigore e la vitalità. Bob sottovaluta Hoover. Hoover vuole che la precoce ascesa di Kennedy fallisca, anche perché sa che Bob lo vuole rimuovere dall'incarico. Si dice che il ministro della difesa abbia intenzione di sostituire il capo dell'FBI. E Hoover è troppo potente per essere messo da parte. Fin dagli anni 40 ha raccolto informazioni compromettenti su John Kennedy. Hoover è per Bob un avversario che non può essere oggetto di intimidazioni e che non esiterà a far fuori lui e suo fratello. Negli Stati Uniti esistono le intercettazioni telefoniche, ma a meno che il governo federale non sia in grado di provare che l'informazione ottenuta non venga realmente trasmessa ad altri, c'è molto difficile avviare un'azione giudiziaria. Il risultato è che a volte vengono fatte intercettazioni che poi non possiamo utilizzare. Questa legge, questa legislazione che abbiamo suggerito e raccomandato, darà al Ministero della Giustizia, l'organismo investigativo del governo federale, il potere di agire in presenza di intercettazioni telefoniche. Su una cosa Bob e Hoover concordano. Le intercettazioni telefoniche sono uno strumento utilissimo contro la criminalità organizzata. Tuttavia, Bob vuole che a decidere tali intercettazioni sia solo il ministro della giustizia, cioè se stesso. La decisione provoca presto reazioni violente. Votando per Kennedy, la malavita pensa di essersi comprata un po' di pace. Hoffa è stato esplicito. Certi limiti non devono essere superati. Eccolo, sta uscendo. Se permettete che vengano fatte intercettazioni telefoniche indiscriminate e lasciate libero spazio alla fantasia di un ministro della giustizia come Bob Kennedy, ben presto in questo paese saranno messi sotto controllo centinaia di migliaia di telefoni solo per il bisogno personale di distruggere i possibili avversari. Tutto sommato, Hoffa ha ragione. Pochi mesi dopo l'arrivo di Bob a Washington, Hoffa non è l'unico deciso a prendersi una rivincita sui Kennedy. Hoover ha in mano una lettera in cui si dice che la malavita l'ha giurata a Bob, che ufficialmente è il suo capo. La lettera denuncia i metodi da Gestapo adottati da Bob in qualità di ministro della giustizia. Molti segni fanno pensare che anche altre persone legate alla malavita non si arrenderanno molto facilmente. Con la storia di Bob Kennedy riprendiamo dopo la viabilità. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta... Mix 24, i gialli della storia. Siete ancora all'ascolto di Mix 24, oggi vi sta proponendo la storia di Bob Kennedy. Bob è ministro della giustizia, si sta facendo molti nemici. In più, è il braccio destro del presidente, il consigliere più ascoltato di Kennedy. Alla Casa Bianca, intanto, i fratelli Kennedy devono affrontare la prima seria crisi. Judith Campbell, amante di John, e del gangster di Chicago, Sam Giancana. 22 marzo 1962, ore 12:15 in punto. Hoover, senza essere stato invitato, si reca alla Casa Bianca per ricordare ai Kennedy che il loro futuro è nelle sue mani. Due ore dopo, Bob si precipita dal fratello. Il presidente va a letto con la donna che è l'amante di colui che suo fratello ha giurato di distruggere. Bob cerca di convincere il presidente a lasciare la Campbell. Kennedy pone fine alla relazione con una telefonata, ma non smetterà di correre dietro alle donne. Nella vita privata e in quella pubblica Bob è tutt'altro che un santo. Sin da ragazzo ha imparato che gli uomini dei Kennedy devono sempre dar prova della loro mascolinità, con il coraggio, affrontando i rischi e con le conquiste femminili. Ma non sono né Hoover, né Hoffa, né gli appetiti sessuali di John a creare la crisi peggiore. Saranno i negoziati con Cuba ad offrire a Bob l'occasione per mostrare il peggio, ma anche il meglio di sé. Nei primi anni della sua carriera, Bob ha preso parte alla violenta campagna anticomunista del senatore McCarthy. Per Bob, Fidel Castro e il suo alleato sovietico Nikita Khrushchev sono nemici giurati. 1961, lo sbarco alla Baia dei Porci si risolve nella morte e nella cattura di centinaia di esuli appoggiati dagli Stati Uniti. D'ora in poi il desiderio di Bob di distruggere Castro diventa un'idea fissa. L'operazione era stata ordinata da Eisenhower, ma la responsabilità del suo fallimento ricade solo su John Kennedy. Dei voti di tutti i candidati repubblicani messi insieme, credo renda... Per Bob, la Baia dei Porci è una terribile umiliazione. Quando vede suo fratello in lacrime, Bob giura di vendicarsi. Giura di farla pagare a Castro a modo suo, secondo lo stile dei Kennedy, che prediligono azioni compiute di nascosto e in segreto. Bob è aperto a qualunque opzione. fa finta di non vedere quando la CIA, per liberarsi di Castro, organizza un complotto con la mafia. Arriva al punto di appoggiare i piani dei servizi segreti per assassinare Castro. Per Bob Kennedy sarà un boomerang. Fidel Castro ha chiesto ai russi una protezione nucleare. 15 ottobre 1962. Gli aerei spia degli Stati Uniti rivelano che i sovietici, in segreto, stanno installando dei missili a Cuba. Per John Kennedy è la prova più difficile della sua presidenza. Ora più che mai ha bisogno del fratello, l'unico consigliere di cui si può fidare ciecamente. John convoca immediatamente Bob alla Casa Bianca. Bobby comincia a far emergere un lato fin qui sconosciuto della sua personalità. Quello del lucido diplomatico che crede nei negoziati e nella persuasione, più che nel conflitto. Bob non ascolta i consigli dei militari e spinge il fratello, anziché ad invadere e bombardare Cuba, a concludere un patto segreto. Per 13 giorni il mondo vive nell'incubo di una terza guerra mondiale. Bob e il fratello hanno portato il mondo sull'orlo del disastro, ma se la sono cavata. Ma un altro problema si affaccia sulla presidenza di Kennedy. Gli scontri razziali sono sempre più violenti e diventa indispensabile fermare questa spirale che sembra senza via d'uscita. In America la gente di colore non è ancora libera. Nel sud la segregazione razziale sta alimentando una rabbia crescente. Nel paese è il caos. Dilagano le manifestazioni per i diritti civili. Una cupa ombra sulla presidenza Kennedy. Gli americani si chiedono quando finirà tutto questo. Ma Bob non si arrende. Va ad incontrare i dimostranti. Promette loro di impegnarsi a risolvere la situazione. Abbiamo detto che faremo tante cose. Abbiamo detto che faremo di più. Ma dobbiamo tenere conto di qual è stato il punto di partenza. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Chi è interessato a lavorare al Ministero della Giustizia o conosce qualcuno che lo sia, è il benvenuto. I Kennedy sono costretti ad agire prima che la questione dei diritti civili si trasformi in un'altra grave crisi. Alabama, profondo sud, 30 settembre 1962. James Meredith, uno studente di colore, vuole iscriversi ad un'università di soli bianchi. Ma il governatore dell'Alabama, George Wallace, è determinato a impedirglielo. Da che parte stanno i Kennedy? Dalla parte dei democratici bianchi del sud, che si oppongono strenuamente all'integrazione e che però con i loro voti hanno consentito a Kennedy di andare alla Casa Bianca? Oppure dalla parte dei poveri, della gente di colore e degli oppressi? Bob invita il presidente a prendere posizione davanti al paese. Pur sapendo di suscitare l'ira dei bianchi del sud, John acconsente. E quando gli americani vengono mandati in Vietnam o a Berlino Ovest, non vogliamo che siano soltanto bianchi. Ogni americano dovrebbe poter godere dei privilegi di un cittadino americano, indipendentemente dalla razza o dal colore della pelle. Washington, agosto 1963. Martin Luther King, capo della campagna dei Neri d'America per i diritti civili, porta il suo messaggio a centinaia di migliaia di persone nella manifestazione più imponente che si sia mai svolta in città. Bob rispetta la crociata di King, ma ha delle riserve sulla sua vita privata. Autorizza perciò Hoover a mettere sotto controllo il telefono di King. 5 anni dopo, il presidente Johnson si servirà di questo episodio per gettare discredito su Bob presso la comunità di colore. Il presidente Kennedy lascia Washington per recarsi a Dallas. Bob non rivedrà mai più suo fratello. Improvvisamente il tempo è scaduto. L'affermazione dei diritti civili sarà la vittoria di un altro presidente. 22 novembre 1963. La fine di un sogno. Per Bob è una tragedia doppia. Ha perso un fratello, ma anche il potere di cambiare l'America. Ora Bob teme che il mondo ricorderà il fratello come un martire pieno di buone intenzioni. E la sua presidenza più per le tante crisi che per dei veri risultati. E ora, al posto di suo fratello c'è Lyndon Johnson, per il quale Bob ha maturato un crescente disprezzo. Per Bob è come assistere a un colpo di Stato. Bob è prostrato. Per mesi non riesce neppure a lavorare. È diventato il fantasma del fratello, quel che resta di ciò che è andato perduto. Non gli interessano nemmeno più le riunioni di gabinetto. Eppure era Bobby, non certo Johnson, il legittimo erede del trono di Kennedy. Johnson è un brillante usurpatore, che tuttavia ha successo là dove i Kennedy hanno fallito. La legge sui diritti civili è una sfida per tutti. Dobbiamo impegnarci per cancellare nelle nostre comunità e nei nostri stati, nelle nostre case e nei nostri cuori, le ultime tracce di ingiustizia.

13 marzo 1968. Bobby annuncia di volersi candidare per diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti. Oggi annuncio la mia candidatura alla presidenza degli Stati Uniti d'America. Non mi presento come candidato alla presidenza soltanto per contrastare qualcuno, bensì per proporre una politica nuova. Mi candido perché sono convinto che questo paese sia su una strada pericolosa, perché so come dobbiamo agire e sento l'obbligo morale di fare tutto quello che posso. Mi candido per cercare nuove politiche, politiche per porre fine allo spargimento di sangue nel Vietnam e nelle nostre città, politiche per abolire la disparità che c'è oggi tra bianchi e neri. Il rapporto della Commissione sull'ordine pubblico è stato ampiamente ignorato. Mi candido alla presidenza perché, tra ricchezza e povertà, io voglio stare dalla parte della speranza. Mi candido perché so bene quello che dobbiamo fare per i giovani e per i vecchi. Mi candido alla presidenza perché voglio che il Partito Democratico sia dalla parte della speranza, anziché della disperazione, della riconciliazione degli uomini, anziché del rischio crescente di una guerra mondiale. Mi candido perché è ormai inequivocabile che noi possiamo cambiare queste politiche disastrose che creano divisioni solo cambiando gli uomini che attualmente ne sono gli artefici. Ma è davvero un sogno impossibile? Bobby non ha l'appoggio del partito. Un altro democratico, un candidato contrario alla guerra, Eugene McCarthy, sta ottenendo vasti consensi. È uno sforzo caotico e disorganizzato, ma per le strade, tra la gente, con decine di milioni di persone che lo guardano alla televisione, Bobby suscita nuovamente grande entusiasmo. Bobby dovrà affrontare una serie impegnativa di primarie, una dopo l'altra, e poi la difficilissima convention di Chicago, che si svolgerà in agosto, ammesso che Bobby ci arrivi. A gran parte della classe media che lo guarda in televisione, Bob sembra un agitatore che trascina una folla delirante e sempre più numerosa. Chiedo il vostro aiuto. Ho bisogno del vostro sostegno. Possiamo ridare alla gente la possibilità di governare. Possiamo trasformare completamente questa nazione. Possiamo cambiare il nostro rapporto con i paesi del Patto Atlantico. Possiamo compiere un nuovo sforzo per la pace in Vietnam. Io chiedo il vostro aiuto, datemi una mano. Chiedo il vostro appoggio per i prossimi mesi. Me lo darete? Ovunque vada, Bob fa appello alle aspirazioni più autentiche e profonde, alla nostalgia per il mito e l'innocenza della presidenza del fratello John, ma anche al desiderio di sanare e porre fine agli odi che dividono il paese. Alla fine il dado viene tratto. Johnson, sempre più impopolare e danneggiato in modo irreparabile dal Vietnam, annuncia che non si candiderà per un nuovo mandato. Ora Bobby ha una probabilità. Non è più un democratico che si presenta contro un presidente democratico. La gara ha inizio. Un numero crescente di americani condivide le sue opinioni. Nei ghetti bruciati, nelle baracche del profondo sud, tra i giovani, tra i radicali e in molte comunità bianche del proletariato, la popolarità di Bobby è in aumento. Insieme con Bobby forse potranno far risorgere il sogno americano. Ma poi c'è un'altra tragedia. Io ho un sogno, che un giorno saremo in grado di lavorare insieme, di pregare insieme, di lottare insieme, di andare insieme in carcere, di difendere insieme la libertà. Io ho un sogno! Quando apprende la notizia, Bobby è in aereo. Sta andando al ghetto di Indianapolis per un discorso. Il pubblico non è ancora al corrente dell'accaduto. Signore e signori, devo comunicarvi una notizia che sarà molto triste per tutti quelli che vogliono la pace nel mondo. Martin Luther King è stato assassinato questa sera a Memphis. Alle persone di colore che sono tra voi e sono tentate di nutrire odio e diffidenza nei confronti dei bianchi di fronte a una tale ingiustizia, vorrei dire che nel profondo del cuore condivido gli stessi sentimenti. Un membro della mia famiglia è stato ucciso a Dallas. è stato ucciso da un bianco. Negli Stati Uniti non abbiamo bisogno di divisioni, di odio o di violenza, bensì, secondo l'operato di Martin Luther King, di amore, di saggezza e di un senso di giustizia nei confronti di quelli che ancora soffrono, siano essi bianchi o neri. Mentre una nuova cappa oscura sembra avvolgerli, agli americani di colore Bobby appare ora come l'ultima speranza. È un idolo, per alcuni addirittura un messia. Quelli che lo adorano avvertono il suo dolore, ma vogliono condividere il suo ottimismo. Per loro Bobby è il salvatore. Tra aprile e maggio, nelle varie città, un numero enorme di diseredati di ogni razza e religione vota per lui. La Casa Bianca sembra farsi sempre più vicina. Il nostro destino è ricostruire l'America. È il destino di questa generazione di americani. Cambiare il volto del paese. Affrontare i nostri problemi. Parlare con candore e sincerità di quello che ci divide. Parlare di quello che ci separa. Di quello che c'è di buono negli Stati Uniti e di quello che possiamo fare. Quello che vi chiedo è di far sentire la vostra voce non solo per protestare, non solo per dire che siete contrari a qualcosa, bensì per dare un nuovo volto a questo paese. George Bernard Shaw una volta ha detto: alcuni vedono la realtà e si chiedono perché. Io sogno l'impossibile e mi chiedo perché no. Posso chiedervi di unirvi a me? Grazie. La notte della morte di Martin Luther King, Bobby confida ad un suo assistente: sarebbe potuto accadere a me. Quell'estate anche ad altri dirà che il suo destino è segnato. Da qualche parte, tra la folla, un altro killer è in agguato, pronto a premere il grilletto. Ma Bobby non mostra a nessuno la sua paura, né chiede protezione. Giugno 1968. Bobby e la moglie arrivano in California, uno stato in cui vincere è indispensabile. Se Bob dovesse perdere qui per la sua candidatura, sarebbe la fine. Che cosa è accaduto negli Stati Uniti in questi ultimi 3 anni? Ci sono state divisioni e violenza. Divisioni tra bianchi e neri, tra ricchi e poveri, tra generazioni e pareri discordi sulla guerra del Vietnam. Io intendo candidarmi per impegnarmi in questo. Grazie a tutti. Ora il prossimo appuntamento è a Chicago. Andiamo a vincere laggiù. Grazie. Ma Bob vince. Questa volta non si è presentato come erede di John, ma come Bobby, un Kennedy che cambierà davvero l'America. Agli assistenti dice finalmente di sentirsi Bobby Kennedy e non il fantasma del fratello. Poi, improvvisamente, quando sta per lasciare la festa, un giovane squilibrato, Siran Siran, spara all'uomo che la gente sperava divenisse il prossimo presidente degli Stati Uniti. Le ultime parole pronunciate dal senatore rivolte alla moglie sono: gli altri stanno tutti bene. Poi perde conoscenza. Come ha detto tante volte, in molte parti del paese, Robert Kennedy morirà 2 giorni dopo. Aveva solo 42 anni. Alcuni vedono la realtà e si chiedono perché. Io sogno l'impossibile e mi chiedo perché no. L'America è di nuovo in lutto. Più di 100.000 persone di ogni età, religione, razza e classe sociale sfilano davanti alla sua bara a New York. Nella morte, egli è riuscito ad unire l'America. Poi Bob Kennedy inizia il suo ultimo viaggio verso una tomba accanto a quella del fratello. Sul cartello di un uomo di colore che segue il funerale è scritto: abbiamo perso la nostra ultima speranza. I suoi sogni non si sarebbero mai avverati. Per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.